Runtime Radio presenta OGM, OGM. E amici di Runtime, buonasera, bentrovati. Come state? State bene? Vi sarete già fatti una mezza idea che probabilmente oggi l'host della situazione non sarebbe stato Simone Pizzi. Rifallo perché non ti avevo ancora aperto. Si parlava dell'host, no? No, dell'host, si tratta di bere. L'host, certo, dai, bello. Poi c'era la cosa, c'era Sawyer, bravo, bello l'host. Sì, parliamo dell'host, dai. Parliamo dell'host. Loke. Proloke, ora Proloke vuol dire tanta luce. Era quello? Quello che? Può darsi, no. Ma sapete che io l'host intero non me lo so visto mai. Ma intero manco io. Poi mi ci devo dedicare. Non ho mai visto le ultime due stagioni. Qual è la puntata 16 della sesta stagione? Bellissima. Ragazzi, io ho tutte le stagioni, tutti i cofanetti originali. Il quinto e il sesto non li ho le ultime due, sì, che dovrebbero essere quinto e sesto. Non li ho neanche torto il cielo. Potremmo vedere quella puntata, la mia puntata 16. Non lo potrei mai vedere, non c'è nel tuo cofanetto, mi spiace. Immagino, una puntata speciale. Vabbè, ragazzi, allora vi saluto. Abbiamo con noi ai microfoni, come l'avete capito, Marco Gualdi. Non ho l'astronave, quindi improvvisa da solo, Marco. L'astronave è questa, è un'astronave UFO un po'... No, io sai, parlo quando Simone mette il jingle che pare che parte la trasformazione, dico sempre quello, no? Devo dire... Ah. Anzi, no, scusate, ragazzi, aspetta, perché sto riguardando la console di regia. Si vede che è un po' che non lo faccio. Allora, dicevamo, ci sono con noi questa sera ad OGM Marco Gualdi. Grazie, eccomi, bella musica. La musica, tu che c'è sta musica in sento un cazzo, cioè, non lo sento io, non c'è sta. Grazie, ragazzi, buonasera, sarà bello presentare, adesso me ne vado. Ed abbiamo con noi dall'assolata, spero assolata, Reggio Emilia, il nostro Francesco Lobby Frontali. Sì, confermo, qui anche sono cadute tante sole, quindi sì, assolata, assolatissima. Ma è una settimana di sole, mi viene da dire, un po' ovunque, ma ci torneremo. E anche dall'ala ancora più assolata e desolata per certi motivi, Puglia, il tacco d'Italia, il nostro Puccio Console. Ci sono 4 gradi e mezzo, ragazzi, quindi assolata un par di palle. Stiamo a pigliare pure per culo. Sono 4 gradi di separazione. Però. Ma poi perché c'entra? Può far freddo anche quando c'è il sole. Insomma, anzi, la neve spesso e volentieri c'è quando c'è anche il sole. Se non c'è il sole non c'è nemmeno la neve, perché... Non c'è la neve, il cielo è coperto e fa freddo. Sole. Cioè, veramente... l'ultimo colpo 5-6 giorni da merda. I giorni della merda, esatto. Beh, l'ultimo colpo di coda del cosiddetto generale inverno. E oggi dobbiamo parlare di generali, ragazzi, perché oggi veramente c'è stato... Cioè, oggi, ormai un paio di giorni fa, però è la prima occasione che OGM ne può parlare, perché è successo quando? Venerdì, mi sembra, che... Sì, il 18 marzo, quindi venerdì, che a Pordenone, durante una sessione di addestramento notturno, un carro armato dell'esercito italiano sbaglia mira, e cosa fa? Cannoneggia un pollaio, ragazzi. Una roba che neanche nei fumetti di Mad l'hanno mai vista. Ma nemmeno nelle Stormtroopen, credo. No, cioè, regà, fermi tutti. Voi non sapete quanti stronzi erano quei polli. Cioè, ma veramente degli stronzoni. Aspetta, ma quanti stronzi sono dei terroristi? Un po' se la so cercare, insomma. Beh, sì, sicuramente non sono stati colpiti a caso, insomma, vero? Poi da quando c'è figliolo, voglio dire. Vuoi che facciano errori del genere? Ma ti pare, ragazzi? Anzi, secondo me... Io ho una mia teoria, poi ditemi voi che siete più tecnici di me. Secondo me abbiamo giocato d'anticipo, abbiamo fatto la guerra preventiva, perché visto che siamo in un periodo di faticosissima gestione del Covid, non ci potevamo permettere di avere anche l'H1N1. Probabilmente in quel pollaio la nostra intelligence sapeva che c'era il rischio di un focolaio di influenza aviaria, e per evitare che si potesse creare un cluster lo abbiamo bombardato. mi sembra Troppo arzigogolati, Andrea. Io ho dei sospetti che forse no, però Ma comunque, ragazzi, oggi non dovevamo fare la puntata celebrativa per William Shatner di 90 anni. Ma sì, ci arriviamo. Avete portato il bourbon? Lo scotch? La birra. Ah, la birra, bene. La birra romulana. La birra buona. Raccontaci cosa bevi di buono. Non abbiamo uno sponsor? No, allora qui sulla etichetta c'è scritto Bionda Bio. È un po' una così. Come il famoso uomo Hell. Cocco D. Hell, non so, perché adesso sto mezzo al buio, quindi non vedo perché c'ho tipo... una birra infernale. Una birra trentina infernale, quindi. Che mi ha consigliato Francesco, io sono riuscito a trovarla e trovare questa l'assaggio. Ed è buona, buona, bravo Francesco, brava birra, bravo Francesco. Quindi è trentina italiana, si può cannoneggiare. Trentina italiana è abbastanza un ossimoro, però vabbè. Sì, penso che facciamo finta. I trentini non sarebbero molto d'accordo con questa affermazione. Specificato più i sudtirolesi, i trentini ancora italiani, non si offendono. I sudtirolesi, vai là, parlano tutti quanti austriaco, ma è giusto che sia. È stato indebitamente sottratto. Ma poi dici che non cannoneggi quelle zone. D'altra parte in Corsica parlano più italiano che francese. Ma a sto punto potremmo fare questa sorta di negoziato con l'Europa, no? Facciamo una sorta di principio di rimescolamento delle carte. Restituiamo Alsazia e Lorena ai precedenti possessori. Ridiamo noi anche ci prendiamo il Tirol. Ci prendiamo la Corsica. Sì, Alsazia e Lorena. La togliamo alla Francia. Poi dopo diamo il Sud Tirol all'Austria. E l'Austria deve dare qualcosa alla Francia. L'Austria cosa potrebbe dare alla Francia? Beh, se la vedono loro, però scusa, no, perché ci dobbiamo intromettere? Nel loro negoziato, nel loro... Devo chiudere il cerchio, che ne so, meglio, giura la trattativa, secondo me. Non lo so, diciamo che adesso mi prendi impreparato perché non so neanche dire se l'Austria e la Francia confinano? No, non c'è bisogno di confinare, basta scambiarsi le cose, cioè, l'importante è che ci sia la linea tratteggiata che unisce le due cose. Se c'è la linea tratteggiata si può scambiare, come risico. Se no, non la linea è continua, non puoi neanche sorpassare, devi fare la linea. Come praticamente è successo nel secondo episodio della nuova trilogia di Guerre Stellari. Se c'è la linea continua, non puoi sorpassare l'astronave. Ma non rinturzichiamo su opere di cinema di fantascienza non particolarmente riuscite. Di fantascemenza. Tra l'altro, poi magari parliamo di altre cose. Perché non so se voi l'avete fatto. Avete visto lo Snyder's Cut di Justice League? Cardato. Puccio lo so, gli altri? No, me ne frega lo vedrò. Francesco, non gliene frega un cazzo. Io lo vedrò prossimamente. Ma che poi in realtà non si può neanche considerare più di tanto spoiler, visto che tutto sommato la trama la conosci, perché non è che non è la versione spoilerate. Di Snyder. Ma quell'originale, quello di Joss Whedon l'hai visto? Beh, allora non è che ci sia molto da spoilerare. L'hai visto? No, non ti sei perso un cazzo. Mi ha detto che è uguale, quindi mi è spoilerato. Beh, diciamo che quantomeno viene ridata dignità più o meno a tutti i personaggi, però ne parliamo dopo perché appunto abbiamo raccontato questa storia di questo allevamento di polli che è stato erroneamente bombardato durante un'esercitazione notturna. Ma diciamo la verità, era un tentativo di nuova ricetta. Il generale vuole essere goloso, ha provato questo tentativo di cuocere in modo istantaneo dei polli e vedere cos'è, però solo che non ha controllato bene gli effetti collaterali, cioè un migliaio di meme entro 48 minuti da quando è successo l'evento. Quindi. Sì, c'è stato uno tsunami di meme che qui... Marco, sei pronto per la rubrica racconta un meme? Sì, meme alla meme sotto mano, però sì. Beh, a parte ce ne sono stati veramente tantissimi. Secondo me il più bello di tutti è l'immagine di Gustavo Fring davanti al cartello di Los Pollos Hermanos che dice Next Opening Pordenone. Secondo me tra tutte questa è una delle più belle, non so se vi è capitata, anche una delle più facili da raccontare, insomma. Mi è piaciuta molto la foto di un carro armato che spara e sotto il commento seguiteci per nuove ricette. Sì, sì, anche quello deve essere fenomenale. Però ragazzi, ora noi la stiamo prendendo abbondantemente a ridere e ci sta anche bene. Per fortuna. Però io mi domando, che poteva prendere a casa? Esatto, se al posto di un pollaio avessero colpito la casa del colono piuttosto che magari uno stabilimento dove si sta facendo produzione e dove ci fossero degli operai, che cosa sarebbe successo? Cioè, cosa sarebbe successo? Lo sappiamo, però insomma, brutta storia. Oppure che fosse successo che, non so, prendevano una sede della Lega, sarebbe successo un casino. Ma magari, ragazzi, no, ma l'erba cattiva non muore mai. E non si può, ragazzi, non si può. No, comunque però l'altro... Vai. Sì. No, volevo proprio capire il tuo disappunto. Dimmi, Francesco. No, l'altro meme è bello, uno dei più diffusi. Forse il primo che ho visto è quello lì della pagina di Wikipedia, che quando ci sono le battaglie, cioè a destra siamo un quadretto riassuntivo di tutti gli schieramenti e le vittorie, che battaglia del Cellina, data 18 marzo 2021, luogo nei pressi di Pordenone, esito vittoria strategica italiana, schieramenti Italia Pollame, comandanti colonnello Alessio Bacco, dall'altra parte Rosita, effettivi reggimento Genova cavalleria, 4 carri armati, dall'altra parte 24 galline. Perdite, un proiettile 105 mm, 12 galline, un muro. Quindi questo trascende il genere. Vittoria schiacciante. Che poi in realtà stavo guardando le foto del tetto di questo pollaio che è stato bombardato. Ci sono due fori, uno più grande e uno più piccolo. Quindi non ho neanche ben capito la dinamica delle cose. E poi c'è un altro pezzo di questo muro, o meglio di questa tettoia, che è stato in qualche modo sembra semidivelto, ma forse era un danno precedente, perché non riesco a cogliere era l'esercitazione precedente, quindi probabile. Vabbè, morale della favola, gliel'avranno risarciti questi polli, che dite? Pare di no ancora. Fonti giornalisti che dicono che sono ancora in trattativa. Ah beh, pure. Comunque sia, si sono beccati questo bell'obice da 105 mm, insomma, che non è una cosa da poco. Vabbè, è così, prendiamola a ridere, anche se ci sarebbe da piangere. D'altra parte, al nord in questo periodo le cose non è che stiano andando particolarmente bene, perché se a Pordenone ci sono prove di guerriglia, nel frattempo in Lombardia non riescono nemmeno a mandare un cazzo di SMS agli over 80 che dovrebbero fare il vaccino, tant'è che... In compenso gli over 80 non hanno un cazzo di modo per capire che gli è arrivato un messaggio, perché non ci capiscono una minchia, quindi cioè, il problema è risolto alla radice. Vabbè, ma ci sono... Dovrebbero essere i loro caregiver che appunto li indirizzano verso il centro vaccinale più vicino. Bravo Puccio che l'hai pronunciato in modo corretto, perché io sento spessissimo, anzi quasi sempre, dire caregiver. Io ho detto, ma provo che danno la macchina, questo non ne danno, cioè non concedono, però dovunque, pure in seminario, dovunque ho partecipato a gente pure più o meno del settore geriatrico o meno. Ma forse erano davvero dei caregiver, quelli più geriatrici di noi, erano tutti autisti più, Uber più. Comunque sta area farà aria, cioè questa società che, oltre a essere coinvolta nello scandalo dei camici comparsi così, donati a pagamento, diciamolo, cioè è anche, è oltre ad aver fatto st'altra cappellata della gestione dei servizi di prenotazione e di segnalazione degli appuntamenti dei vaccini, addirittura, cioè, per un giorno a Cremona i vaccinatori si sono girati i pollici, pure gente gli è arrivato l'SMS che ieri avevi appuntamento alle ore tot per fare il vaccino, poi alla fine si è deciso che dovrà prendere aria e verrà preso, e il posto lo prenderanno le Poste Italiane, però come dicono da altre parti le Poste Italiane stanno più o meno funzionando, diciamo. Io vi rifaccio sì, Poste Italiane, no, Poste Italiane non manda gli SMS, le manda una lettera. Esatto, le raccomandate con ricevuta di ritorno. Esatto. Di ritorno, devi ritornare pure a ricevuta, perché sennò... No, con ricevuta di ritorsione. No, infatti, quello che so, quando vai a fare la dose di vaccino devi portare un francobollo. Esatto, da 20 euro. Un gronchi rosa devi portare. Mego per il Pfizer, il gronchi rosa. No. Io vi rifaccio la domanda di prima, ma quindi se c'è la PostePay salti la fila, come funziona? C'è l'app per prenotare? Hai la corsia dedicata. Titolari PostePay e poi... Ricordiamo a tutti che i centri Sisal non fanno più i vaccini, una volta li facevano, ma adesso non più. È peccato. La cosa bella, si è indignato pure il Barilotto, quel Barilotto di Salvini, ovviamente prendendosela con gli esecutori e non con chi c'è. Siamo tutti qui, ovviamente siamo tutti chi perché sbagliato. Poi sai la voglia di giustizialismo un po' alla in declinazione Lega, lui subito tuona: se qualcuno ha sbagliato deve pagare. Ma quando si tratta di far pagare loro, se va bene si fa in comode rate per 80 anni, insomma. E poi ovviamente si trova sempre una testa di legno da far saltare. L'anno scorso, o comunque pochi mesi fa, ha pagato l'assessore Gallera per tutti. Cosa hanno pensato bene di fare? Di metterci la Moratti, che adesso è anche lei indignata, fa il diavolo a quattro. Beh, ma tu sei il vertice della piramide che stai criticando, ti dovresti dimettere. Ma non è colpa loro, non è colpa loro. E che li disegnano così. E ci sono nati, capito? Non è colpa. No, io davvero, ragazzi, non mi capacito. Se guardate, tutte le regioni governate dalla Lega sono quelle nella graduatoria agli ultimi posti per la gestione delle vaccinazioni. Non è, vabbè, è anche proprio... vero che sono la maggioranza comunque, quindi cioè, statisticamente c'è più possibilità che facciano schifo. No, non so, siano... maggioranza, non so. No, che vuol dire la maggioranza, Marco? Di che cosa? Al nord, decisamente. Sì. Beh, allora le regioni governate dalla Lega sono la Liguria, il Veneto, la Lombardia, la Sardegna, l'Umbria, la Calabria, anche se Spirlì è una specie di facente funzioni, però di fatto dovrebbero essere queste. Era più centrodestra Calabria che Lega. Sì, però, perché c'era la Santelli che era di Forza Italia. No, ma io dico di centrodestra, non solo di Lega, attenzione. Allora la quota sale, però non si parlava di centrodestra, insomma. Vabbè, sì, ho attribuito alla Lega anche la Liguria, in realtà Toti è di Forza Italia, quindi non è, diciamo, è di coalizione. Ma volendo pure il Veneto, tendenzialmente Zaia non sta più con la Lega, tipo c'è una roba sua. Sì, ma Zaia, perché secondo me sotto sotto sta preparando il colpo di stato. Il colpo di stato a Salvini. Ah, sì, dite che siamo alla notte dei lunghi coltelli tra poco. Ma secondo me tra lui e Giorgetti di Salvini non ne possono più. Tra l'altro Giorgetti sta applicando, da quando è tornato nelle stanze dei bottoni, sta applicando un metro e, diciamo, una tattica che va abbastanza in conflitto con le parole che Salvini spertica e ogni settimana e ogni giorno in realtà continua a diffondere, no? Quindi i due figuri sono un po' in contrapposizione. Prima o poi ci dovrà essere una resa dei conti, no? Perché se da una parte la Lega nel governo ha assunto una certa posizione, dall'altra c'è sempre Salvini che cerca di sparigliare le carte. Che dobbiamo pensare? Che tra l'altro Salvini... Sì, che Salvini in settimana ha fatto la grande scoperta del secolo, ha scoperto cosa vuol dire se una luta. Esatto. Cioè, che è andato su Wikipedia, che ha fatto? No, raga... No, il fatto che comunque quando i 99, cioè nel processo contro con i 99 posti, che praticamente alla prima udienza del processo per diffamazione, proprio intentato contro i 99 posti, non mi ricordo in quale occasione, cioè gli dissero se è una luta. Esatto. Lui le sue dichiarazioni dopo ai giornalisti è dato: ho scoperto cosa vuol dire l'offesa se è una luta. Ho scoperto finalmente che è un'offesa e ho scoperto che comunque sentito... scusa, non li denunzio. No, sì, ha detto: cazzo, mi hanno sgamato. Brutto. Ragazzi, ma piuttosto, non so se avete letto la Porello, secondo me la figura di merda peggiore che ha fatto è quella di quando ha postato sui social la foto con la sua attuale compagna, che è la figlia di Denis Verdini, ricordiamo, che sostanzialmente si è laureata. E quindi ha messo la foto, ha scattato una foto con lei con la in abiti da cerimonia di laurea, quindi con la corona di alloro in testa, eccetera, e scrivendo: qualcuno qui si è laureato, no? Quindi i supporti, cioè, la prima risposta è stata: non tu. No, ma la cosa assurda è che tutti i suoi sostenitori sono accorsi a mille e mille, bot e non bot, a fare i complimenti, a incitare il capitano e a partecipare a questi auguri, ma praticamente se non tutti, la maggior parte ha pensato che la persona che c'era in foto con lui e che si stava laureando fosse la figlia. No, la povera ragazza. Tutti a fare, tutti a fare i complimenti a papà Salvini per la laurea papà della figlia. Salvini, complimenti. Beh, quindi, insomma, vi posso dire. Vabbè, che non, è una figura del, non è una figura del merda, insomma, alla fine che ha fatto lui. Cioè, no, però, fine... ragazzi, la dice lunga se nemmeno i tuoi elettori ti, che ti sostengono a spada tratta sanno un cazzo di te. Ma perché senso... lì è partito, gli è partito male il botto. Secondo me hanno fatto una cosa, un augurio generico da papà e tutti gli sono andati indietro. Dici che Morisi l'aveva programmato per un altro evento? Probabilmente sì, ma perché la gente neanche legge o guarda, cioè gli auguri, vede, vede il post precedente, il commento precedente, tanti auguri al papà, e tu, oh, cacchio, auguri, auguri, cioè manco guardano, la gente è così oggi, superficialità portami via, insomma. Eh sì, sì. Oppure, sì. Voglia, oppure vogliamo dire che in generale le persone, insomma, che navigano su internet, in particolar modo gli elettori della Lega, sono delle gente che è veramente profonda e dal grande senso critico e autocritico. No, dai. Beh, di base sono tutti, soprattutto gli utilizzatori dei social, sono degli analfabeti funzionali. Probabilmente bravo, magari fossero solo quelli da Lega, insomma. No, no, no, però probabilmente loro sono tra i più fortunati. Fervidi sostenitori dell'ignoranza digitale, probabilmente. Vabbè. D'altronde fa comodo a tutti. Vabbè. Però comunque la Lega comunque dei meriti ce l'ha avuta, almeno a livello regionale, che diciamo una regione addirittura hanno dovuto creare quasi una zona bianca apposta per la Sardegna, che però si è stata bruciata quasi subito, diciamo, sta tipo zona un bianca. Quarto d'ora. Sì, io questa cosa d'ora, ragazzi, non l'ho capita, nel senso che io, come qual è stato il parametro? So che Crisanti, che nel frattempo era diventato consulente della regione Sardegna per l'epidemia, ha avuto da ridire, ma io non ho capito qual è stato il parametro che ha fatto saltare. Ho capito una cosa, e cioè che in questa fase il giallo non c'è, quindi poi passi per forza, no, da bianco a arancione. Però esatto, qual è stato il parametro che ha fatto passare la situazione in un'isola che comunque in questo momento è abbastanza tagliata fuori dalla terraferma, da bianco ad arancione nell'arco, perché nemmeno delle due settimane canoniche? Stanno aumentando i casi, quindi probabilmente poi c'è qualche parametro dell'aumento di... Sì. Ho capito, ma possono aumentare così velocemente da passare da bianco ad arancione? O anche, no, da bianco a giallo in così... Ah, evidentemente hanno sbagliato a farli diventare bianchi prima, però. Partiamo dal presupposto che la zona rossa funziona, la zona arancio funziona, la gialla no. Ma guarda, Marco, da quello che vedo in giro non funziona neanche la rossa al momento. No, no, vabbè, parliamo in generale, cioè lasciamo stare quello che sta succedendo ultimamente, poi magari ne parliamo, però cioè dalla rossa poi si arriva all'arancione e dall'arancione, insomma, Se la fai bene arrivi la gialla. La gialla si sputtana, perché regolarmente poi dopo peggiora la situazione. Dopo massimo un mese, arancione, rosso. Sì, sì, diciamo che le misure sono talmente deboli in zona gialla. Una via di mezzo, insomma, probabilmente. Quindi figuriamoci una zona bianca. Beh, la zona bianca viene attribuita a quei territori dove viene riconosciuto un indice RT talmente basso, un numero di casi per milione di abitanti talmente basso da poter dire che non che si sia eradicata l'epidemia, ma che comunque ci sia un bassissimo rischio di contagio. Il problema è che se così non fosse... Non era proprio così. Esatto. C'erano alcune, cioè generalmente nella Sardegna sì, ma c'erano alcune zone che non, francamente neanche mi ricordo, dove c'erano comunque dei cluster in aumento. Questo la settimana scorsa, tipo. Quindi probabilmente queste cose qui, considerando che ci sono i cluster con casi in aumento e sta in zona bianca, è una combo micidiale, secondo me. Quindi zona bianca è fate come cazzo vi pare. Già lo è in zona rossa oggi per le parti nostre, figuriamoci in una zona bianca. E quindi improvvisamente, puff, gli è scoppiata una bombetta fra le mani. Insomma, normalmente probabilmente sarebbero andati in zona gialla e avrebbero forse recuperato, forse, però non essendoci zona gialla sono preso in derco, ma di brutto. Sì. E comunque i numeri, insomma, dai, sono un po'. Cioè poi per festeggiare il passaggio dalla zona arancione hanno fatto, dove era, Sassari, che hanno fatto i mega festini lì, sul corso, non lo so, ne fanno un po' ovunque, mi pare di aver capito. Però Però il festino più bello è quello lì che sempre in provincia di Cagliari si erano assembrati più di 100 davanti a un bar che Cagliari, ne permetteva una quarantina, arrivano i carabinieri e praticamente questo film si potrebbe chiamare Non aprite quel nuraghe, perché una è imbracciata la motosega e a meno c'è la rincorsa dei carabinieri. Ovviamente li hanno fermati tutti e questo è un agricoltore. Ma... l'hanno identificato e denunciato in un battente. Che altro che venerdì 13, ragazzi? Perché ma ragazzi, secondo me sono semplicemente voi non vi rendete conto che in certi contesti, soprattutto del sud Italia, i calcoli si fanno con questo tipo di strumenti, si regolano i conti con i calcoli si fanno con la motosega, con la motosega, con le lupare, cioè servono sempre a far di conto in qualche modo. È semplicemente è una questione culturale, fa parte del tessuto sociale di certi territori, insomma bisognerebbe anche accettarlo una buona volta, che cavolo. Infatti loro accettano. Esatto, allora accettano. Accettano. Esatto. Un po', insomma, come quelle tradizioni che rendono tali certi popoli, per esempio, e qua ci viene in soccorso sicuramente Puccio. Qual è il simbolo per antonomasia di Bari, non mi dire la Peroni? Leva 01, da quello ecco. Che sta emergendo in questi giorni, più o meno. Spiegaci un po' questa no, ma io penso storia. Che in realtà sia stato un gigantesco lancio pubblicitario che ho capito soltanto ieri. Allora, in pratica dovete sapere che i badesi sono tradizionalmente estremamente devoti a San Nicola, detto Babbo Natale per certi versi, o San Nicola Klingon, perché se andate a vedere il ritratto di San Nicola che sta nella basilica, cioè effettivamente la fronte del tenente Worf, ma proprio uguale, non vi potete sbagliare. Comunque, in discussione da diverse decine di anni, e adesso la cosa si sta concretizzando, cioè il fatto che sostanzialmente Bari non ha una statua di San Nicola, come posso dire, come il Cristo di Buenos Aires, per capirci. Cioè abbiamo delle cose piccole. E anche meno male, piccole, si potrebbe dire. Ma è in effetti. E praticamente questa cosa ai baresi non gli è mai andata bene, e c'è sempre stato questo progetto di fare questo grande monumento dedicato a San Nicola, magari all'ingresso del porto, su un'isoletta tipo Statua della Libertà. Finalmente sono cominciate a uscire i rendering dei progetti che sono stati presentati. La reazione mia personale è stata semplicemente una: Change Getter One. Io non so, poi mettiamo i link magari. Ci sono le foto di questa enorme statua, dall'aspetto squadrato, metallico, con un bastone in mano, che sostanzialmente è un mega robot giapponese. Cioè puoi combattere i kaiju con quella roba. Ma io non so quale devo guardare, però, Carmine. No, Puccio, poi vi mando quella più quotata, okay. In questo momento, che è quella più bella. Perché ce n'è una che è una base quadrata che sembrerebbe quasi una sorta di Statua della Libertà, piuttosto. Esatto, è quella lì. Ah, ok. Allora, in pratica, poi sono andato a vedere i dettagli del progetto. C'è di tutto. In pratica, che questo intorno ci deve essere un parco, che all'interno deve essere allestito un museo. Parco bio, ovviamente. Sì, parco bio, ovviamente. Poi all'interno ci deve essere un'area gioco per bambini, ci deve essere una scuola nicolaiana. Il Trader G7. Sì, esatto, cioè okay. Il Trader G7. Il Macross. Devo capire una delle tue. Io, francamente, non avevo capito perché di tutto questo entusiasmo, perché oggettivamente è una roba di una bruttezza devastante, fino a quando non ho visto il trailer di Godzilla vs Kong che hanno pubblicato ieri, la cui fine, se guardate attentamente, si capisce che l'avversario sarà Mecha Godzilla. Secondo me noi vogliamo usare Mecha San Nicola per difendere, come baluardo per difendere, sì, no, dai... Secondo me lo stronzo che ha fatto il progetto è uno che ha visto Pacific Rim una volta di troppo, e lo dico io che me lo sono visto. Secondo me ha visto Atlantic Rim. Sì, mamma mia. In pratica ha deciso che se proprio San Nicola non solo ci deve proteggere in senso metaforico, ma proprio in senso anche fisico, un po' spaventare. Esatto. Quindi secondo me può essere un deterrente contro i kaiju che possono sorgere dal porto di Bari, anche contro il crimine. È anche sorta di colosso di Bari, proprio perché lo metti sul porto. Ma io sono assolutamente favorevole all'idea di guidarlo, difatti sto cercando se stanno selezionando candidati. Ci sono gli anti-prag anche da utilizzare, magari. Sì, poi l'altro giorno era la festa del papà, quindi io stavo pensando agendo Icari all'eventualità che questo discorso io possa farlo a mio figlio, del tipo: Pietro, sali su quel robot, muoviti. Però così fosse, esatto. Tu capisci che ci dovrebbe essere l'anima di tua moglie nella statua, se no qualcosa non torna. Sicuramente ci sarà l'anima degli meglio. L'anima degli meglio sicuramente. Ma non facciamo spoiler su Evangelion, che poi è uscito, no. C'è gente che potrebbe non averlo visto. È uscito solo nel 1995. Potrebbe esserci gente che non ha capito che in realtà c'era il tessuto delle mamme dei piloti, che era tutta la rappresentazione dell'utero, del cordone ombelicale. Ho capito, io, ragazzi, da figlio però... di ginecologo, l'ho capito dopo 2 mesi perché sono un coglione. A un certo punto, già quando tu chiami un cavo d'alimentazione umbilical cable, due conti te li dovevi fare, diciamo che era un suggerimento buttato lì, perché dice difficile, fammi mettere almeno qualche elemento. Cioè, non è che a casa mia si parlasse di molto altro, di tutto sommato ci potevo pure arrivare da solo senza leggere le spiegazioni su internet. Ma siccome sì, diciamo che c'è un background di riferimento in famiglia, sì, è vero. Ragazzi, intanto fatemi salutare chi c'è in chat sulla nostra live, perché abbiamo in collegamento, che ci stanno ascoltando, Full Metal Chicken e PRG sicuramente, poi gli altri oggi sono un po' pavidi, non si stanno palesando, non fa niente, ci recupererete in difterite. Invece volevo approfittare, chiedo però l'aiuto del pubblico, perché volevo passare uno spot, perché sapete che domani è un giorno un po' particolare, non è un giorno qualunque né per Runtime né per le collaborazioni di Runtime, perché domani su Steam esce un gioco. È vero, il gioco di Umberto. Il gioco di del nostro che non, Umberto, non lo Parisi. Cercate come il gioco di Umberto, esatto, perché potreste non trovarlo. Umberto's Game. Chi lo vuole introdurre meglio prima di mettere lo spot? Logico. Non so, io ho giocato anche al primo, se qualcuno interessa, ma penso che anche, sì, anche Francesco. Allora, anche io, anche raccontateci, perché questo gioco tra l'altro... è il seguito di Chronicle of Innsmouth, cioè la prima avventura grafica che ha realizzato Umberto. E questa è la seconda, perché prima perché la prima non bastava, detto chiaramente. Sì, ispirata quindi comunque alle avventure classiche della LucasArts, però in salsa lovecraftiana, come si può intuire dai titoli. Sei dai vari riferimenti del titolo, esatto. Sì. Come se il primo Chronicle of Innsmouth era molto, diciamo, fedele, quasi molto fedele al racconto originale, questa è una ritratta, questa il seguito Mountains of Madness è un seguito, perché riprende un personaggio che si vedeva in alcuni flashback nel primo. Questa volta sarà il personaggio principale. Dal punto di vista artistico è un salto proprio di 10 volte rispetto a quello originale, in cui giustamente Umberto ha fatto un pochino tutto lì in pixel art, era stato il suo primo progetto. Stavolta si è fatto affiancare da dei collaboratori che gli hanno fatto davvero una pixel art della Madonna, degli sfondi belli, diciamo così. E io, no, c'avevo sta aneddoto che io una volta, proprio durante il lockdown, ci stavo giocando a Chronicle of Innsmouth, e mentre ci giocavo proprio stavo sentendo a un certo punto una puntata così molto estemporanea, proprio dei Beceri, in cui stava partecipando pure Simone, e io gli ho scritto in chat, ho detto: ma devo partecipare anche tu? Ok, praticamente stavo partecipando a una puntata con loro, cioè praticamente mentre stavo giocando a Chronicle of Innsmouth stavo parlando anche con il creatore, quindi ho detto: ma sta parte qua che devo fare a un certo punto. Questo è metagaming, ragazzo. Esattamente. Sì, è l'hotline proprio al over 9000, praticamente. Direttamente dall'evoluzione della specie. Però. Sì. Vabbè, vorrei di lanciare assolutamente sì. Lanciamo il trailer, 40 secondi e torniamo da voi. Lanciamo il filmato. Preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno. Ispirato ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft. Svela un mistero celato da eoni tra i ghiacci del tempo. Affronta l'incubo. Chronicles of Innsmouth, Mountains of Madness, dal 23 marzo su Steam. Approfitta dello sconto del 10% al lancio. E dobbiamo ringraziare anche il nostro Leo Vargeon, che ha col suo contributo sapiente permesso di costruire lo spot che avete appena ascoltato. Mi raccomando, da domani su Steam accorrete numerosi, perché insomma Umberto ci si è impegnato tanto e sarebbe anche carino per rispondere a questo sforzo creativo con un riconoscimento. Altrimenti facciamola, facciamola breve. Allora, se noi andate a dare i soldi e vi comprate il gioco, andiamo a chiamare un certo cannoniere di un certo carro armato. Ma non faremo nomi? Non facciamo nomi e vi facciamo fare una bella sorpresa. Sappiatelo. Surprise. Kinder sorpresa, per rimanere a proposito di uova. Va bene, ragazzi. E invece, come abbiamo detto, oggi è giorno comunque di grandi compleanni. Quindi permetteteci un momentino solo di celebrare uno dei più grandi, dei più splendidi novantenni in vita. Di chi stiamo parlando, Marco? Patrick Stewart. No, credo che però ci insomma va vicino, ma non è lui. Non trovo. No, credo che Patrick Stewart stia sui 78-80. L'avevamo visto così, ma era Pischello. No. Qui il vecchio vero è lui, l'uomo che non mi ha mai risposto su Google Plus, ma mi chiedeva sempre di che cazzo fossi figlio di inglese. Cioè, who are you, motherfucker? Ed era Bill William Shatner, il nostro mitico capitano Kirk. Il nostro miticissimo capitano Kirk, che compie appunto 90 anni, mentre il capitano Picard, ho controllato, ne compie 80, è del 13 luglio del 40, quindi ha 80 anni, insomma ha una decade di meno, anche insomma se per certi versi potrebbe anche sembrare che se li porta meglio il poro Bill Shatner. Patrick Stewart c'ha 80 anni da quando ce n'aveva 30. Eh sì, è quello. Patrick Stewart soprattutto non usa il parrucchino, quindi potremmo anche usare. Non ha mai avuto i capelli, Patrick Stewart. No, ci sono delle sue foto con i capelli in giro, le ho viste, devo dire. Merita, ragazzi. Erano quelli di Gandalf. Quando aveva 7 anni. Si può essere. No, era un ragazzino tipo 21enne. Scusa, che c'è? Gandalf e Ian McKellen, che c'entra con Patrick Stewart? Io lo so, ma è il suo migliore amico. Per questo, vabbè, certo. Sì. Quello ha sposato la sorella di Ian McKellen, Patrick Stewart. Davvero? Una roba del genere. Cioè, sì, sono mezzi imparentati. Quantomeno non è la moglie attuale, quella a cui lui spesso ammira le sise quando. Comunque, cioè, non ricordiamolo solo per il suo ruolo come capitano Kirk, cioè è stato anche T.J. Hooker. Esatto. È stato Danny Crane in una serie meravigliosa che è Boston Legal. Boston Legal è stupenda, con un altro mostro che alle volte viene sottovalutato, che è James Spader, che è un altro attorone. Detto Ultron. Detto anche cioè. Ultron, non da noi però, nel senso che... No, ma era l'unica cosa decente in quel film, era lui. Cioè, ragazzi, se voi dovete vedere Age of Ultron, che è ok che quando è uscito eravamo contenti perché era il film vendicato, ok, tutto bello, vedetevelo in inglese, perché il 90% di quel film è James Spader che fa Ultron. Beh sì, gli dà una profondità di interpretazione notevole, però io non riesco neanche a trattarlo poi così male quel film, sempre nel suo contesto di film di intrattenimento e basta, perché poi ovviamente non è che sia un film con chissà quale morale, quale spessore eccetera, io tutto sommato, a parte inventarsi la Sokovia, l'ho trovato abbastanza carino. Vabbè, la Marvel se l'inventa i paesi, voglio dire, ma pure la DC. Molto più la DC. Tra l'altro, per non offendere nessuno, insomma, alla fine la DC si inventa le città proprio. Esatto. La DC si inventa le città americane. Perché poi se ci fa. Questa riflessione l'avrei voluta fare dopo, ma la faccio adesso, se no me la dimentico parlando appunto di Justice League. Avendo visto lo Snyder's Cut ieri, riflettevo come sul fatto che nelle produzioni legate al mondo DC, le metropoli americane in cui si ambientano tutte le storie dei supereroi sono tutte di fantasia, quindi Metropolis, Central City, Star City, Gotham City. Poi però le altre città europee, dove per qualche città mondiali in realtà, dove anche per qualche americano, motivo però debba succedere qualcosa, sono tutte città effettivamente esistenti. Ad esempio, all'inizio Diana Prince si trova in Francia, a Parigi. Sì. Ma non so se esista una, vabbè, a parte l'americanocentrismo medio. Ed anche Londra viene rappresentata all'inizio del film, nelle prime scene del film. Quindi... Senti, ma mi ci stai a far riflettere, perché sì, in realtà la Marvel è più vicina alla realtà su queste cose. La Marvel è anche usa delle città di fantasia solo di fantasia quando solo all'estero. No, ma no, più che altro quando deve narrare eventi particolarmente spiacevoli che possano avere un fastidio politico. Cioè, se parla di un... Se dici, guarda, l'Ucraina ha fatto un casino, anche perché quando parla di stati dove... Stati canaglia, ex sovietici, stati canaglia, infatti, allora, non gli ha appena fatto torta a nessuno. Vabbè, usa, ti venti usa la sua copia per dire che l'Ucraina ci sta, eh? Sì, però. Sì, anche se non ho mai capito se la sua copia voleva essere un misto tra un paese dell'est oppure semplicemente la Jugoslavia nel periodo della guerra di separazione tra Serbia e Croazia. Cioè, no, non l'ho capito dove se la sono tirata fuori. Vabbè, comunque, paese est medio. Tanto stava distrutta. Esatto. Sì, in ogni caso, Gloria Darstotska. Sempre. Papers, please. Comunque, ragazzi, non so se vi è capitato di vederlo, ce l'ho da qualche parte, qualche anno fa ad un Comic Con è stato acclamato come cosplayer il tizio vestito da controllore dei passaporti di Astotska. Ah, con gente che faceva la fila con i documenti per farseli timbrare. No, bellissimo, ragazzi. Perché avevo visto di un paio d'anni fa quello lì vestito da con la maschera di Topolino, ci stanno tracciando, stacca stacca. Era bellissimo. Ci vorrebbe una convention, non alla Lucca Comics, proprio alla Comic Con anche da noi, perché Lucca Comics alla fine sì. Però possiamo fare il Covidon. Il Covidon, ragazzi, che figata! D'altra parte, così otteniamo l'immunità di gregge, tanto per rimanere anche in termini zootecnici. Questa puntavano quando hanno messo la zona bianca in Sardegna, perché là di greggi ce ne sono, quindi sì, deve essere per questo. Tutto torna, ragazzi, tutto torna. Tra l'altro stavo leggendo un po' di messaggi in chat, ad esempio, vabbè, ci sono messaggi. Sì, Pier G ci diceva del 90° compleanno di Shatner, eccolo qua, che gli stavamo facendo gli auguri. Poi Full Metal Chicken si domanda, chissà se Kirk fosse abitato in Lombardia se lo avrebbero vaccinato a 90 anni. Chi lo sa, se ci fosse, cioè se il problema è capire se lui poi ci sarebbe riuscito a farsi vaccinare. Tant'è che Pier G dice: mia zia ha 82 anni, l'hanno vaccinata la settimana scorsa e in attesa del richiamo. Di giudizio. Sì, esatto. E invece sempre Virgì ci domandava appunto: ma com'è la Snyder's Cut? La devo vedere dopo la diretta, ovviamente non tutto stasera. Guarda, restituisce dignità a quei personaggi che sono stati completamente devastati dal primo montaggio e dalle scelte scellerate di Joss Whedon. Se posso darti un consiglio, io l'ho visto ieri, ho iniziato intorno alle 17:30 fino alla fine. Ecco, il mio consiglio è non guardarlo a pezzi, non ce n'è motivo, si lascia vedere. Se chiaro, se inizi dopo la diretta di OGM stasera, magari si fa troppo finisci tardi. Finisci domattina, probabilmente. Sì, però se invece ti metti all'orario giusto, io ti consiglierei di guardarlo tutto senza interruzioni, perché comunque scorre via così, non è uno di quei film con la trama complessa che se non la segui perdi qualcosa. Andare al bagno. Guarda senza andare a bagno, anche che ti dà quell'attimo di enfasi, di sofferenza, che aiuta molto nella visione a creare film. Il pathos, perché comunque l'atmosfera dei film di Snyder sono più dark, sono più cupe, sono più sofferenti, non è quella fotografia sempre pulita dei film della Marvel, quello tutto comunque no. Immaginatevi dopo 3 ore e un quarto che vi mancano ancora 45 minuti e state lì con la vescica che vi esplode, sudate freddo, no, devo vedere tutto questo film, dai, deve essere anche fantastico. Anche i titoli di coda, perché c'è la scena post credit. No, non c'è. No, però. No, ci mancherebbe ma solo. Ma come che... no? Ma no, ma dai, cioè, mi avete spoilerato pure questo. Mannaggia, Marco. Beh, però c'è una scena finale che lo guardi e dici: guarda, ragazzi, sta vicino a me. Ma tu stai dicendo il flash forward? No, sto dicendo Malanter. Ah, ok. No, perché poi c'è anche. Beh, in realtà che si collega al flash forward in un certo senso. Sì. All'inizio, a un certo punto, diciamo, dopo l'epilogo principale del film, c'è una scena in cui c'è un flash forward di un numero non proprio precisato di anni, che fondamentalmente servirebbe a farti presagire quelle che erano le idee di Snyder per i seguiti e per un universo DC ulteriore, che però non riesco a capire alla fine della fiera che l'hanno messo a fare, ben sapendo che non ci sarà questa continuazione. No, vabbè, c'era anche nel film originale, cioè quel flash forward diverso, senza Joker, senza tutta una serie di robe, c'era anche, quindi ti faceva capire che poteva accadere un evento che avrebbe portato quelle conseguenze. È per questo che c'è quella scena in cui il personaggio di Ezra Bridger, Flash, torna indietro e gli dice: occhio a quella persona, perché se muore le conseguenze sono quelle che hai visto. Quindi penso che in qualche modo sta cosa servisse come carta d'avvio per Flash, Flashpoint. Beh, Flash comunque credo che lo faranno comunque in lavorazione. Il discorso è che i successivi Justice League che si vanno a perdere a questo punto. Tra l'altro lo stesso Snyder ha ribadito: considerate canonica la versione precedente, la mia versione non è da considerare canonica. Per quanto, da quello che si è capito, vogliono inserire il multiverso DC proprio a scarpate nei prossimi film, quindi teoricamente vale tutto. Sì, il problema è che appunto adesso bisognerà ripartire dall'ennesimo reboot di Batman con Robert Pattinson, tra l'altro, che promette bene. Non ho visto ancora il trailer. Poi abbiamo Superman che verrà rebuttato per l'ennesima volta, non sappiamo se, quando e da chi, ma sicuramente non ci sarà Henry Cavill. No, allora, debuttato no, ci dovrebbe essere il passaggio di consegne, si dovrebbe ispirare una serie carina che era Terra 2, in cui Superman si sacrifica, però viene fuori il sorpresone. C'è il sorpresone, nel senso che il governo degli Stati Uniti si è tenuto un kryptoniano sottoterra per un ventennio, e, tra l'altro con un cognome importante, di cognome Zod, proprio per tenerselo come arma segreta nel caso Superman avesse dato i numeri, e quindi ci dovrebbe essere questo passaggio di consegna tra Kal-El e Val Zod, perché a quanto pare Cavill non lo vuole fare più Superman. Cioè, che vedevo dire, io il personaggio lo adoro, c'ho la S al collo, Cavill come Superman mi piace, però capisco pure che è un ruolo che porta una sfiga terrificante. L'unico sfortunato è stato Christopher Reeve alla fine. No, allora, il primo, quello che lo faceva nei serial radiofonici, ha fatto un incidente da solo su un rettilineo andandosi a schiantare contro un palo. Mai capito come l'ha fatto. George Reeves, il Superman delle serie televisive in bianco e nero, è morto per un colpo di pistola in una stanza chiusa all'interno della quale la pistola non si è trovata. Ah sì, lo ricordo. C'è un film molto bello che si chiama Hollywoodland. C'è un film molto bello che si chiama Hollywoodland con Ben Affleck, che se potete vedetelo, perché è veramente meraviglioso. Christopher Reeve ha fatto la fine che ha fatto. Brandon Root, gli è morta la carriera dopo, ma quello non penso sia la sfiga di Superman, penso che il problema fosse un altro. Ma al di là della sfiga di quello che porta, secondo quello me di lui Superman, ha avuto qualche impiccio con Bryan Singer. Comunque stava pure c'era il Superman di Lois, Superman, e Clark, ragazzi, che è impazzito, certo. Che mo è diventato trampiano e dice che gli ebrei portano rogna, queste cose così. Quindi si potrebbe sposare con Gina Carano. Però, probabile. Comunque stavo dicendo, c'è un problema di fondo, secondo me, che bisognerebbe considerare su quel ruolo. In realtà sta spiegato molto bene nei DVD del Superman di Donner, che spiegò che quando avevano dato il ruolo a Christopher Reeve gli avevano dato il costume, e Donner, prima di darglielo il braccio, gli ha detto: tieni presente che da questo momento, per qualsiasi bambino della Terra, tu sei Superman. Quindi non ti devi far beccare che ti ubriachi, non devi fare cazzate con la macchina, non devi andare a troie, devi essere Superman, perché tra l'altro contrattualmente te fanno un culo così per la perdita d'immagine, quindi penso che sia uno di quei ruoli che tra l'altro ti comprime talmente tanto che probabilmente soprattutto perché metti le mutande sopra le calzamaglia, quello ti comprime. No, in realtà quello no, Kevin non lo metti più. No, no, adesso no, lo so, adesso hanno rifatti i costumi, tra l'altro, ragazzi, ecco. Ma infatti per questo gli mettevano le mutande sopra il costume, così non andavano a mignotte. Sai che rotture de palle togliese tutto, cioè, infatti sì. No, io però adesso volevo fare una riflessione, ragazzi, mi affido alla somma sapienza di Puccio sull'argomento, e cioè, al di là del fatto che quello che noi sappiamo di Superman è che lui ha dei superpoteri che sono portati in buona parte, magari non completamente, ma in buona parte, dal fatto che lui ha sulla Terra, a causa delle diverse condizioni della gravità, dell'atmosfera, eccetera, della luce del sole giallo. Un vantaggio rispetto agli indigeni, perché appunto lui viene da un'atmosfera più da una gravità più pesante, quello che sia, di conseguenza sulla Terra è più leggero, riesce a volare, bla bla bla bla bla. Questo ci hanno sempre raccontato di base i fumetti, e questo, diciamo, poteva anche in qualche modo inquadrarlo come un personaggio molto potente, però fino a un certo punto, tant'è che in Dawn of Justice non ti dico che Batman con i suoi espedienti tecnologici gli tiene testa, perché non gli tiene, diciamo, totalmente testa, però insomma, tutto sommato sì, se la giocano, Superman evita di calcare troppo la mano. Però cosa succede da quella narrazione a quella di Justice League, in cui sostanzialmente Superman è un dio rispetto anche agli altri supereroi? No, ragazzi, cioè il problema è che per Snyder i supereroi della DC non sono gli eroi allegri e coglioneschi, ma tendenzialmente umani della Marvel, sono divinità, cioè Superman e Apollo, Wonder Woman e Artemide, Batman e Ade, cioè ci sono delle caratterizzazioni ben precise. E poi c'è un problema di fondo, che a Snyder piace moltissimo la caratterizzazione del rapporto tra Superman e Batman che dà Frank Miller, che una volta se la risolve la spiegazione, se la risolve quella spiegazione del perché Batman comunque gli dà filo da torcere, con una battuta sola che vale metà del film di Snyder. Batman considera la differenza di potere tra lui e Clark e dice: comunque c'è un motivo perché o vinco io o comunque lo metto in difficoltà, perché anche se lui è controllato, anche se lui è impazzito, anche se lui è folle di rabbia, fondamentalmente lui è una brava persona e io no. Dal sipario. Non so se sostiene questo cambio. Io ho sempre trovato assurdo questa sorta di... No, è che Batman gioca sporco, no? La lancia con la criptonite, l'anello rubato a Luthor con il castone di criptonite, oppure il fatto di usare l'energia elettrica per debilitarlo, perché no, sono d'accordo, però la forza mostrata da Superman contro Batman, sì, ma è proprio quella. Justice è comunque una frazione di quella che poi lui mostra quando... Ma lui si contiene, il problema di fondo è che lui si contiene, non uccide, si contiene, sa che insomma non c'è partita. Tra l'altro, tra i due, che ti devo dire, è che Steppenwolf gli ha fatto roder culo a prescindere, allora, perché lì proprio sganassa, proprio è arrivato, no, l'ha gonfiato, cioè, come la scena di come non Goku sono in Dragon impressionato Ball. La scena "non sono impressionato" è meraviglioso. Sì, non mi spoilerate, ma c'è anche nel taglio precedente. Sicuro? Diciamo che nel taglio precedente Steppenwolf fa una fine un po' meno cruenta, però. Esatto. Sai cosa mi ha ricordato quando lui arriva e fa lo sbruffone "non sono impressionato"? Uno dei primissimi episodi della seconda serie di Kenny il Guerriero, quando lui ritorna, affronta questo nemico che tu dici eri fomentatissimo da questo Kenshiro precedente, comunque non parlava mai, arriva ad affrontare questo nemico che non mi ricordo esattamente cosa dice o cosa fa, però lo minaccia e lui gli risponde: "tremo tutto". La stessa cosa, non sono colpito, è la stessa, poi no, la stessa squadra, sapete, che è arrivata, io ormai sono ad un livello superiore proprio. Cioè, se vi è capitato, su Amazon hanno messo non la serie di Ken, hanno messo i lungometraggi, no? Sì. E io li ho visti per curiosità, perché comunque so che sono prodotti un po' così, però insomma da fan li ho guardati. E c'è questa scena iniziale in cui c'è uno dei minions, uno dei punk post-nucleari, che gli grida qualcosa contro, e Ken non se lo caca, va avanti, allora rispondimi. Si vede Ken che, mantenendo, cioè dandogli le spalle, fa: io non parlo con i cadaveri e tu sei già morto. E cioè l'effetto esplosione di una tamarrata fenomenale, ragazzi. Allora, ragazzi, scusate solo un secondo, perché adesso Piergi ha scritto: non vi si sente più. Vediamo che succede, perché purtroppo ogni tanto il server di Azzurracast... attenzione. Tornati? No, aspetta che scrivo in chat. Gli sto dicendo di spostarsi sulla diretta di Spreaker, perché lì ci siamo. Perché purtroppo ogni tanto Azzurracast, credo di aver capito, che faccia un pochino di capricci. E quindi eventualmente passiamo la diretta sul... segnaliamo agli ascoltatori che ci vogliono ascoltare. Chiaramente non lo, se non ci stanno sentendo non lo sanno. Gli ho passato il link. E quindi niente, dobbiamo fare anche radio di servizio in questo momento. Gli facci radio sapere di servizio. Se passando su Spreaker, è vero, ci senti? Spreaker. Perché purtroppo ogni tanto viene meno il flusso in diretta sullo streaming di runtimeradio.it. È problema di flussi. Si sono incrociati i flussi. Si sono incrociati i flussi. Mannaggia, ragazzi. Mannaggia la svendrona. Comunque, vabbè, insomma, dicevamo: sì, ok. Parlavamo di questa sua sbruffoneria. Nel frattempo, proprio Piergi diceva che il problema di Superman è lo stesso di Capitan Marvel. Sono op per un film corale. Overpowered. Per un film corale. Ma in realtà il problema è questo: che in questi film la scala di valori tra i vari personaggi è sempre talmente relativa che non ci capisci mai niente. Perché quel personaggio che magari nel film o nella scena precedente tiene testa a fatica ad un avversario che dovrebbe essere molto meno potente, poi nella scena successiva diventa un dio in terra, quindi non sai mai come attribuire i vari poteri ai vari personaggi. C'è una scena in cui Capitan America regge la pressione di Thanos, cioè ci sono tutta una serie di cose nei Thanos probabilmente, se gli togli le gemme dell'infinito, non è nemmeno tutto sto... No, Thanos senza te gemme dell'infinito mena Hulk. Teoricamente, ecco, vedi, per esempio, teoricamente non ce l'ha ancora il guanto in quel momento. Per quello che gli dice pure: fallo divertire. Per quello che ne so io, Hulk dovrebbe essere uno dei personaggi più forti in assoluto tra i... perlomeno, diciamo, se ti basi tra sul... gli umani, nel senso tra quelli tra i non villain. Se mi passate questa cosa estremamente nerd, cioè una volta c'era un libro della Marvel ufficiale, canonico, no? Con la descrizione dei personaggi, con indicati, che vi devo dire, livelli di potere, no? L'indicatore della forza di Hulk era infinito, perché teoricamente non ha un limite, più si incazza e più la pressione arteriosa lo porta a essere forte. Quindi teoricamente tra gli umani... Nel frattempo, intanto dalla regia tecnica ci dicono che non era Azzurracast che si era ingrippato questa volta, ma purtroppo, siccome si è arrestato il segnale Spreaker sul computer che fa la regia, si era interrotta anche lo stream sul runtime. Però adesso dovrebbe essere stato ripristinato anche quello. Piergi, se ci sei, batti un colpo. Scusate, torniamo a noi. No, dicevamo di Hulk, sì, ok, ci sentite ora? Sì, no, il paro Hulk. Ma quale colore? Di che colore? Quello verde? Quello verde, quello rosso, quello blu. Ma bisogna... Quello grigio? Quello grigio è meno forte ma più intelligente. Mister Fixit. Ma quanti suoi... Cioè, i personaggi non finiscono mai, veramente. Meno male, aggiungerei. Ma invece, ragazzi, l'avete iniziato a guardare Falcon and the Winter Soldier? Sì, con no. mia moglie, perché credo che mia moglie c'ha un debole per il Soldato d'Inverno, per Bucky Burns, per il giovane Mark Hamill, perché se guardate lui e Mark Hamill da giovane sono uguali, un pochino ci assomiglia, ma io mi auguro per lui che invecchi meglio di Mark Hamill, insomma. No, io voglio invecchiare come Mark Hamill, pazzo e con la barba, è pieno di barbone, tra l'altro, ragazzi, allora io non so, ho la sensazione che quanto è più di WandaVision questo questo Falcon and the Winter Soldier in realtà sia un film camuffato, nel senso che saranno solo 6 episodi, di conseguenza a maggior ragione potrebbe essere praticamente un quanti film. Minuti dura la puntata? 25-30. Guarda, se togli 6 minuti di sigla finale sono sempre sui 32-35, no. Perché ti dice 42 minuti una cosa del genere, il footage su Disney Plus. Beh, un filmone di 3 ore, però ci sta. E vi dico, ragazzi, che non so se tutta la serie terrà quel ritmo da un punto di vista produttivo, ma la scena d'azione iniziale, che tra l'altro dura diversi minuti, con Falcon in aria che combatte contro degli elicotteri e degli avversari più o meno volanti, a un livello assolutamente cinematografico. C'è gente che non ha visto Endgame, attenzione, tipo Pizzi non ha ancora visto Endgame e dovrà portarsi quest'onta per tutta la vita. Tra l'altro anche Pier G dice i primi 10 minuti hanno una qualità cinematografica tripla A, poi il ritmo si smorza molto. Beh, perché poi si comincia a raccontare la trama vera e propria, il ritmo si smorza proprio perché è quel preludio, quell'incipit, è questa sorta di sinusoide tipica anche di un film, alcune scene d'azione che si alternano a scene di narrazione. Secondo me, montato in un certo modo, Falcon and the Winter Soldier potrebbe risultare veramente un film Marvel di quelli più che discreti, poi prolungato, vediamo un po', che poi prolungato fino a un certo punto, perché 3 ore per un film Marvel non è neanche tantissimo. I vari Avengers sono durati tutti dalle quelli 2 ore corali sono sopra, esatto, sì, sono sopra. Quindi però un Ant-Man, per dirti, quanto dura? 1:40. No, beh, quelli singoli durano intorno alle 2 ore, anche Capitan Marvel, anche questi qua, insomma. Però intanto nel primo episodio abbiamo anche rivisto il Trent Rooks. Non spoilerà. Marco, ma scusa, ma cosa fai dalla mattina alla sera? Non mi dire ma che vendicate. Ce lo vediamo insieme a Pizzi non ha ancora visto Endgame, quindi dobbiamo vedere tutto qua, dobbiamo fare tutta una linea di prodotto. Quindi non avete visto neanche WandaVision? Come mia moglie. No, WandaVision l'abbiamo finito questa settimana. E allora che c'è? Scusa, e allora anche per vedere WandaVision avreste dovuto vedere prima. Sì, WandaVision, cioè tanto già, no, quello precedente l'ha visto, quindi ha già visto che praticamente Visione era morto. Poi ha visto gli effetti del The Blip, però insomma, fondamentalmente che te dovevi aspettare. Adesso il resto non è che raccontano un granché dopo del post Endgame, insomma. Invece su Winter Soldier c'è uno spoilerone. Dice Pier G, speriamo che caratterizzino bene i personaggi nelle prossime puntate. Guarda, non è facile, soprattutto perché a me, per esempio, Anthony Mackie fa venire l'orticaria. Io proprio non lo so, magari il personaggio potrà essere meglio dell'attore, però veramente... Guarda, secondo me lo sai che ti dà fastidio? Il doppiaggio, la voce che gli hanno dato. Sì, forse un po' forse anche quello. Se tu lo senti in originale, te fa comunque, c'è una voce diversa. Beh, ma guarda, anche la gamma di espressioni dell'attore non è che sia particolarmente ampia. Adesso non lo voglio paragonare a chissà quale mostro di incapacità recitativa, però non, insomma, per capirci. Sì, no? Esatto, però insomma, finché deve fare lo sparring partner di Capitan America ci sta, ma quando deve diventare un protagonista comincia a essere già un po' più difficile da sostenere, insomma. Poi vabbè, sarà che ultimamente si è visto in un po' di produzioni Netflix non particolarmente brillanti. A me non è molto piaciuto, ad esempio, non che Greg Kinnear prima di lui fosse stattorone, però secondo me nella serie Netflix di fantascienza, che adesso mi sfugge il nome, Altered Carbon. Ci ha perso tantissimo, ha completamente depotenziato una serie la cui prima stagione era carina, la seconda... Ragazzi, io Altered Carbon, se io mi permetto di dare un consiglio, leggetevi i libri che li hanno pure ripubblicati di recente, perché i miei sono veramente molto molto molto meglio. Quella serie di libri li stronca dal mio punto di vista, cioè tagliano materiale interessante, potenziano altra roba. Poi hanno preso una decisione, a me francamente le differenze tra i libri e i film 9 volte su 10 mi rimbalzano, cioè se sono giustificate, cioè pure chi se ne frega, io non mi aspetto un rapporto uno a uno, no? Però uno dei motivi che ha reso secondo me meno interessante o perlomeno meno divertente quella serie, voi avete presente l'intelligenza artificiale dell'albergo, no? Certo, sì. Sapete chi è l'originale? Hendrix, Jimi Hendrix. Sì, l'avevo sentito, forse proprio da te. Era un po' più difficile renderlo, forse anche per motivi di... No, credo che ci fossero dei problemi di sfruttamento dell'immagine, un po' come per fare un parallelo, quando hanno fatto il film di Dylan Dog ambientato a New Orleans e non hanno potuto usare Groucho Marx perché ovviamente gli eredi non hanno dato i diritti, e credo che con Jimi Hendrix sia la stessa cosa. Sì, perché in realtà pare che la Bonelli ci abbia un accordo per l'utilizzo di Groucho Marx che... più o meno a retto, e a quanto pare non è neanche a titolo oneroso, però per i film non si poteva. No, ripeto, non c'è stato l'accordo. Beh, film devi anche trovare l'attore che gli assomiglia, qualcuno che interpreta alla fine è un'icona. Sì, vabbè, ma a parte quel film di Dylan Dog non ha nulla di nulla. Io non gli avrei dato neanche i diritti per Dylan Dog. Però ma difatti abbiamo appena parlato della morte della carriera di Brandon Routh. Che... Sì, esatto. Beh, diciamo che il film di Dylan Dog è comunque... O meglio, anche se in realtà il racconto che su cui si basa, che è della morte dell'amore, viene dall'universo di Dylan Dog, ma non parla di Dylan Dog, il film della morte dell'amore è stato già oggetto di un film con della morte dell'amore, con Anna Falchi. Di quello sto parlando. Con Rupert Everett, che non parla formalmente di Landog, perché se leggete il libro Orrore Nero, non della morte dell'amore, da cui è tratto poi il film della morte dell'amore, in Orrore Nero il protagonista è simile a Dylan Dog, ma non è Dylan Dog, quindi è Antonio della Morte, è il becchino della morte, che si chiama esatto, e c'è un assistente che si chiama Gnaghi, esatto, che poi è stato ripreso di recente nei fumetti di Dylan Dog per altri motivi, è andato e venuto, è durato pochissimo, però diciamo che è molto c'era più anche in uno speciale di anni fa di Dylan Dog, quello che una volta all'anno uscivano gli speciali, tipo nel terzo o nel quarto speciale, c'era questo crossover. Continuano anche ora a uscire gli speciali. Io non seguo più tantissimo la Bonelli, se non... siccome sono anziano dentro, io ogni tanto seguo Martin Mister, ma perché voglio bene ad Alfredo Castelli. Io ho provato a dare un senso al reboot di Landog di un paio d'anni fa, non ci ho capito un cacchio, ho smesso definitivamente. Tant'è che poi è stato rebootato un'altra volta, perché quello non ha funzionato per niente. Quello l'ho seguito perché il curatore di Dylan Dog, Roberto Recchioni, virtualmente io lo conosco da parecchio tempo, prima come utente di Comicus, come esordiente e poi come autore affermato, cioè aveva un'idea molto precisa che a me piaceva pure, che era quello di portare Dylan Dog nel XXI secolo, perché sostanzialmente viveva una specie, cercava di essere una serie realistica, ma in realtà era come se Dylan Dog vivesse in un universo cronico. Era in una sorta di bolla negli anni '80, insomma. Sì, una rottura di coglioni infinita per certi versi. Quindi ha fatto una procedura di svecchiamento che a me è piaciuta parecchio. Poi ha fatto il ciclo della cometa con l'inserimento, diciamo così, della teoria che in realtà già presente in tanti altri racconti, che esistono tanti Dylan Dog diversi in tanti universi diversi. Beh, certo, quello, perché se non ci metti un multiverso ormai non sei nessuno. Esatto. No, ma in realtà questa è una roba vecchia che si era tirato fuori già Sclavi, che c'era un universo in cui un doggiverso. Mamma mia, sembra un genere porno. Il doggiverso. Un pochino lo è, tendenzialmente. No, qualcuno è porno anche questo. C'era il fatto che c'era la terra di Dylan Dog occupata dagli zombie per colpa di Dylan, perché non aveva voluto sparare al primo zombie che era Groucho, Cioè, ce n'erano varie versioni. Devo dire, a me è piaciuto. Il ciclo della cometa l'ho seguito fino a un certo punto, poi non ci ho avuto materialmente il tempo di leggerlo. Ho letto la tanto contestata storia del matrimonio, che mi ha convinto ancora una volta che chi parla di degli eventi, dei fumetti su internet, 9 volte su 10 non li ha letti. Perché era tutta parliamo una metafora del matrimonio tra Grucio e Dylan. Tra Grucio e Dylan, che non è un matrimonio, è una roba sulla, che vi posso dire, sulla definizione di un rapporto di amicizia molto profondo, che non ha un altro modo di essere definito. Una bromance. Sì, sì. Comunque esatto. È una metafora. Ma che poi esatto. In realtà abbiamo citato, no, tra l'altro abbiamo citato Boston Legal prima. Esatto. Spoiler, finale di Boston Legal. Loro si sposano, sì. Si sposano in maniera assolutamente tra virgolette platonica, perché sono tutte e due terribili donnaioli. Però lo so, ma sono proprio le due facce della stessa medaglia, sono proprio due. Cioè, poi vabbè, comunque Boston Legal, se non l'avete visto, recuperatelo, perché è una serie. È un dramedy, nel senso che è ambientato nel mondo processuale. Però non è un procedural. Non è un procedurale. No, in realtà... è uno spin-off di una serie. Di un legal thriller che tra l'altro c'aveva una marea di implicazioni morali, etiche molto pesante. E Boston Legal prende tutta un'altra piega. Tutta un'altra piega, esattamente. Poi ripeto, ci sono James Spader in particolare, ma anche tanti altri personaggi che sono. C'è Candice Bergen, insomma, ci sono attori veramente. No, scusate, stavo ridendo perché stavo pensando al ruolo di Candice Bergen in quel film, in quel telefilm. Che per chi guardava un po' di serie TV negli anni '80, prima di tutto. Oddio, ce la posso fare per ricordare il personaggio che l'ha resa famosa. Quando ho qual è un ictus? Tranquillo, no, è che ho questi momenti di appunto di breve ictus che mi impediscono di ricordare le cose che Murphy Brown, ecco, ce l'ho fatta. Ma ce l'ho sempre durante la diretta di OGM, che non mi voglio ricordare qualcosa. Sai, poi la pressione così ti salta, ma succede, tranquillo. Comunque, insomma, no, anche perché poi lei in Boston Legal, l'altra socia dello studio, Crane Poole Schmidt, esatto, c'ha una certa età, ma esatto, è una donna molto bella e comunque molto corteggiata ed è comunque alle prese con questi due immani teste di cazzo che sono James Spader e William Shatner, Shatner gli tiene abbastanza testa, No, assolutamente, anzi spesso e volentieri è causa di potentissimo imbarazzo, tipo quando fa in modo che il personaggio di Spader veda le foto di lei da giovane nuda fatte per una rivista. Lui è completamente fuori fase, non sa più che dire, chiude, non le vuole guardare. È meraviglioso. No, veramente recuperatelo assolutamente, sì. Tra l'altro, se non sbaglio, era prodotto dalla Fox, non vorrei dire una cavolata, quindi magari se siamo fortunati ce lo ritroviamo anche su Disney Plus o su qualche su altro Star. Su Disney Star potrebbe essere, cioè non so, adesso non so se c'è Boston Legal. No, era ABC. ABC? Era ABC, sono andato a vedere. E allora niente. Tra l'altro, me l'ho scordato, c'era anche Odo in... Sì, René Auberjonois. Sì, René Auberjonois. Non ho mai saputo pronunciare, quindi... Auberjonois. William Shatner è canadese. Sì, è canadese. Franco-canadese. Eppure non mi sembra che abbia la testa traballante e gli occhi a spillo, però vabbè. Beh, gli occhi a spillo dipende dopo quanti cicchetti. Vabbè, comunque, invece ragazzi, per G prima poi stava rievocando la famosa, mai abbastanza citata scena sulla tomba di Rupert Everett con Anna Falchi, che dice mi ha fatto perdere almeno due diottrie. E pensare che sotto quell'Anna Falchi c'era quello che meno se la meritava, perché lì per lì magari non gliene... Motherfucker! Non gliene Motherfucker! Oh, è arrivato William! Marvin. Sai che verso fa il cane di William Shatner? Marvin. Momento verità, ragazzi. Va bene, ragazzi, allora salutiamo anche William Shatner che ci è venuto a trovare giusto in tempo sul... Sobrio, come sempre. Happy birthday, Bill. Happy birthday. Scusate, stavo guardando se su YouTube Music c'erano gli album di William Shatner. Un attimo. Forse che... su Spotify hai provato a guardarci. Però dovremmo metterla. No, no, la canzone top, la top ten, cioè la hit parade della top ten, della super canzone fatta, super cover fatta da William Shatner, secondo me la dovremmo mettere. Io ho capito che a un certo punto hai detto The School of the Art of the Lollies. The questo School of the Art of the Lollies, esatto. Shatner. Io metterei se è possibile, su YouTube Music, cover delle cover, ragazzi. Su YouTube Music c'ha 2640 iscritti. Shatner. No, stavo guardando i brani presenti. C'è Losing the Sky with Diamonds, che ho paura a sentirla. Mamma mia, sì, mi fa un po' paura. The Thrill is God con Richie Blackmore. Well, ha fatto un duetto con Richie Blackmore, ragazzi. Vabbè che quello si è sposato a Bitrito, quindi va bene come sta. Ha fatto anche Space Oddity con Richie Blackmore. Oh, no. Mamma mia. Spirit in the Sky con Peter Frampton. C'è da dire che se le cerca tutte facili, eh. Jingle Bell punk rock version. No, scusa, Jingle Bell è stupendo. Quella sì, quella si conosce. Perché dovrebbe fare le canzonette facili, insomma, cioè una canzone talentuosa. Come si chiama l'album, scusa? Shatner Klaus. Mamma, quante ne ha fatte il nostro istrione, guarda. No, ha cantato Iron Man. Madonna mia, con Zakk Wylde. C'è Iron Man di Black Sabbath. No, devo sentire subito. Scusate, anche ragazzi. Cioè, il posto di Ozzy, lui è meraviglioso. Si sente, non penso. No, perché ce l'ho in cuffia. Eh no, se ce l'ho in cuffia, decisamente no. Giro di recuperare questa cosa. No, gira il link. Non si può passare. Come... No, sto controllando. No, diceva Patter, non si può passare. Passatemi il link. Passatemi il link. Vediamo una copia, ve lo sto dando. Ve lo metto nella chat di Skype. Ci teniamo per noi queste chicche, mica le possiamo condividere con tutte. Queste chiccose, no. Il mondo deve sapere di Iron Man cantato da Shatter. No, Iron merda. Ve l'ho girata, ragazzi. Bella anche la copertina. Però è solo chitarra. È bella anche la copertina, vabbè, ragazzi. Seeking Major Tom, attenzione. Allora, un attimo, che voi parlate, io cerco un sistema per farvi ascoltare codesta iattura. Anche no, ragazzi, dopo averla ascoltata. È proprio così indispensabile, effettivamente, però... insomma, vabbè, allora facciamo una cosa. Per chi lo volesse ascoltare, noi lo mettiamo qui in chat, per chi volesse ascoltare questa... Cioè, io vorrei capire una cosa, ma sì, per fare i duetti, tipo qui video con Iggy Pop, ma gli ha dato dei soldi, li hanno dati loro a lui? Li ha minacciati, ha detto se... Se non partecipi facciamo un altro duetto, quindi ne facciamo due invece di uno. Che alti momenti di musica, di spettacolo, di arte, ragazzi, di arte. Kizu. Comunque, ragazzi, Iron Man è comunque molto meglio di... Iron Man, attenzione, che è comunque molto meglio di... cosa? Di... Oh, come cacchio si chiama? Osborne. Ma no, di Osborne, dell'altra canzone di Mama Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, insomma, cioè, comunque meglio, se tu senti tra le due Bohemian Rhapsody, secondo me è insuperabile come cagnosità. Guarda, ti assicuro che l'hanno levata da qui. Canzoni l'hanno levata, da quello che vedo. C'è anche Pariah, Different Mold. E vabbè, ragazzi, che dire. Rhapsody, William Shatner. Ma che mi si chiuderà YouTube. Vabbè, Music, ragazzi, però di festa deficienza. Detto no, questo, c'è. Con John Wheaton. Da non confondersi con Will Wheaton. Wheaton! Vabbè, ragazzi, io direi che a questo punto, però siamo arrivati a un certo punto a dover tirare le somme della serata, non so se voi siete d'accordo, però sì, tiriamo le somme. Sì, dai, che ci dobbiamo vedere di nuovo la Snyder Cut. Forza. Esatto, va bene, ragazzi. Allora, anche questa sera permettetemi di ringraziare intanto tutti quelli che ci hanno fatto compagnia in chat. In particolare c'era Pier G e in particolare anche William Shatner che ci ha raggiunto negli ultimi 5 minuti di programma. Quindi grazie, Bill. E permettetemi di salutare i sodali che mi hanno fatto compagnia questa sera, a cominciare dal padrone di casa Marco Gualdi. Ah, Ciao, ubriaco, bevo il barbo tutto questo. Vi assicuro che è meglio della versione originale. Il nostro espertone di fumetti, di spettacolo, di tante altre cose, Puccio Console. Ormai non ce lo metto proprio più, Carmine, per principio. Puccio Console. No, figuratevi. No, così imparo. Guardate, fate conto che sto avendo lo stesso effetto. Cioè, mi è aumentato il reflusso appena è partito Shatner. La roba è terrificante, cioè... È tipo il Gaviscon al contrario. Non so come altro dire. Si prende per... Però si prende per via anale. Ed infine saluto anche il nostro Francesco Lobby Frontali, che non so se vuole salutare anche lui a sua volta il nostro Shatner. No, ciao Shatner. Comunque volevo dire che Nash non l'ho trovata nell'App Store, forse la dovranno fare, l'hanno tolto subito, un'app ufficiale di Clemente Mastella, quindi magari ne parliamo. Io ho visto nella chat, ma ho detto magari ne parliamo. La sto già scaricando, ragazzi. Dillo, com'era? Come me non l'ho trovata. Nella... Chiedi a Clemente, no, com'è che si chiama? Dillo a Clemente. Dillo a Clemente. Non l'ho trovata. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, vi mandi bestemmie la chat, fatemi capire un secondo, prima dei saluti. Cioè, tu insulti la chat, e la chat, cioè questa intelligenza artificiale, questa app, che cacchio tu insulti? La insulti e li riporta a Mastella. Lo scopriremo la prossima settimana, non lo sappiamo ancora. Allora, detto questo, ragazzi, noi vi lasciamo questa sera con il brano della settimana, il brano dei Terron Boy featuring Freaky Dub, che si intitola Roses. E vi saluto su queste note. Ciao! Ciao! Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao, ascoltatrici ed ascoltatori di Runtime Radio. Mi chiamo Terron Boy e potete trovare le mie oniriche canzoni con testi per menti maledette solo su YouTube e su questa magnifica radio. Il rap mi piace tanto, quanto lo scrivere. Sicuramente lo scrivere è cura e malattia. Un saluto a tutta la Puglia. Ciao e forza Runtime Radio. Siamo soli eppure sfatti, matti, dalle gare scipari. Sì, alla fine morendo dentro impari che non siamo uguali e nemmeno pari. Io sto annegando al centro del mare e non mi puoi salvare perché i tuoi occhi sono soltanto dei fari. Safari e la sua caccia sotto il sole, taccia la voglia di averti per ore e ore. Uccidimi con le mani, non con vani pieni di parole. Raggiungo il touchdown del mio domani lanciando con le mani il mio stesso cuore. Muore un giorno dietro l'altro, senza applausi, l'alba chiude il sipario sul palco. L'amore perso in battaglia, prigioniero di un antro. Aurora boreale in classe mentre piango, stanco, steso su questo banco d'accuse e banco da ringhe. Non ho una scusa per aiutare chi si fa le siringhe. Arringhe penali e penose, già che ci sei mettimi le ali. Le spine sul cazzo come le rose, come le rose. Inocchi da vita loca, mamma non si gioca. Perdonami, pormi pazienza poca. Pazienza poca, pazienza poca. Invoca le sue scelte come erbe mediche. Le sue membre eretiche e malefiche mi bruciano dentro. Prima di una stagione all'inferno. Esterno tutto questo all'interno di un eterno terno dove perdo la via, la domanda mia. Dove finisce la tua pelle? Vedo che cresci una pianta ribelle dopo una malattia curata su sempre batteria, malinconia e note vuote crome, come senza un termine di paragone, immensa, in espansione, arriva la voce dove non c'è buon Dio e dove non riscalda il sole. DJ sei un pazzo.